è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui per questo inizio di settimana alla Zanzara, sempre con voi, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la Zanzara @ radio24.it. Andiamo a sentire i titoli del TG2. Berlusconi a Gerusalemme visita il museo dell'Olocausto e pianta un ulivo nella foresta delle nazioni e dice: sogno Israele nell'Unione Europea. Temperature ancora giù, meno 28 in provincia di Vicenza, la protesta degli automobilisti bloccati nella notte per la neve nelle Marche in autostrada. Nessuno ci diceva nulla. Ci insultano da tempo, pubblico, altri giocatori, perfino un arbitro. Parlano i due fratelli nigeriani presi di mira durante una partita del campionato regionale in Umbria e la Federazione Gioco Calcio apre un'inchiesta. Parla il ciclista multato a Milano durante il blocco antismog. La colpa: non teneva le mani sul manubrio. Pensavo fosse uno scherzo, sono stati inflessibili, ha detto. E andiamo a sentire anche i primi titoli di Studio Aperto. Italia assediata dall'inverno siberiano, ghiaccio e freddo dappertutto, scuole chiuse in Emilia. Sul Gargano si gioca palle di neve, temperature glaciali sulle Alpi. In Trentino toccati meno 50 e non è finita. Giorgino, 15 anni, ucciso a Torino per una sigaretta, monta la rabbia nel quartiere. I suoi amici si ribellano e dicono: dobbiamo trovare l'assassino. Comincia a sgretolarsi il muro del silenzio. Visita ufficiale di Berlusconi a Gerusalemme. Il premier ricorda le radici giudaico-cristiane dell'Europa. Ho un sogno, dice, Israele nell'Unione. E al memoriale dell'Olocausto. Eccoci, 18:38, vi ricordo il numero 800 24 00 24. A volte ritornano. A volte ritornano. Beh, questa volta dentro A volte ritornano c'è l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Lo abbiamo lasciato in questo modo, 9 marzo 2008. Sentite. Io ho chiuso con la politica italiana, forse ho chiuso anche con la politica, ma il mondo è pieno di, non solo di occasioni, pieno di doveri, pieno di doveri. C'è tanta gente che aspetta una parola di pace, una parola di aiuto, e quindi c'è più spazio adesso di prima. Sembrava qualcosa di definitivo l'abbandono della politica per Romano Prodi, ma c'è qualche possibilità, tutti lo cercano. Adesso lui dice: no, non ci penso, però potrebbe farsi convincere. Non vorremmo che finisse come, insomma, Walter Veltroni, l'africano, il nostro Stefano Totoro ha raggiunto oggi Romano Prodi possibilista. Sentite. Pensa ad un rifiuto netto su questo, no, da questo pressing? Non dico niente, perché è un pressing talmente totale che non si sa cosa dire. La mette di buon umore almeno questo pressing? Beh, stamattina passeggiavo, ti fa piacere, ecco. Ti fa piacere. Sono qui. Ma poi sa, lei sa della vita che queste cose finiscono in fretta, no? Mai illudersi. Bah, mai illudersi, finiscono in fretta, che cosa? Il corteggiamento, eppure il corteggiamento c'è, continuo. Bene, la risposta di Gabriele Muccino alle critiche che gli sono state rivolte la settimana scorsa per l'intervista a GQ e, insomma, le frasi contro Berlusconi, il fatto che lavora per Medusa, eccetera, eccetera. Secondo Muccino, essere in conflitto di interessi è Berlusconi. Dunque, lui subisce il conflitto di interessi di un Berlusconi, presidente del Consiglio e nello stesso tempo attore, protagonista nella imprenditoria cinematografica. Io dico la mia, Repubblica TV, sentite. Io posso dire a questo punto che come premier lo posso trovare giudicabile, perlomeno io ho un giudizio, quindi posso giudicare il premier, e voglio come uomo libero poter dire la mia, anche se lavoro per l'industria che fa parte del grandissimo mondo industriale del nostro premier. È un conflitto di interessi di cui si parla da anni, ma che poi in questi casi viene fuori. Cioè, io voglio dire la mia e la dico, nonostante lavori per Medusa e mi ci trovi anche molto bene. E dunque non c'è nessuna ipocrisia, secondo Mucino, a lavorare per Medusa e a dire che Berlusconi forse costringerà i suoi figli ad andare a studiare all'estero, che tappa la bocca ai giudici, ai giornalisti, eccetera, eccetera. Mucino, le spiegazioni di Mucino a Repubblica TV. Questa cosa che chi non ha un pensiero di destra e viene additato come incoerente perché lavora con Medusa è una cosa francamente molto, molto ipocrita. Io lavoro per Medusa perché è un gruppo di persone qualificatissime con cui lavoro bene da anni e che rispetto profondamente. Detto ciò, il nostro Presidente del Consiglio, che legittimamente fa il Presidente del Consiglio, possiede anche Medusa. Per cui io, da uomo libero, da cittadino libero, devo avere la libertà di poter dire qualcosa di sincero che penso nei confronti del governo, senza dovermi dire, ah ma tu lavori per Medusa, quindi dovresti dire sì signore. Io non dico sì signore a nessuno, io lavoro per Medusa, faccio business, cioè faccio dei film che comunque incastrano soldi e questi soldi vanno anche nelle tasche di Berlusconi. Sigletta, una nuova sigletta per un personaggio, Concita De Gregorio, che a mio parere dice delle cose così, insomma, non so dare ancora una definizione, aiutatemi voi. Concita De Gregorio, direttore dell'Unità. Chi è sto piccerino? Mio figlio mio. Sono ricominciate le scuole, mio figlio, quello piccolo, stamattina in macchina mi diceva: ma una cosa se la fa il presidente, allora si può fare. Se lo dice il figlio del direttore dell'Unità vuol dire il che... Lodo Alfano, il Lodo Alfano. No, scusa, lo direbbe chiunque. Scusi, direttore, ma suo figlio si occupa del Lodo Alfano, sì. Quanti anni ha? Mio figlio... E ne ha detta un'altra delle sue, Concita De Gregorio, quando... Qualche volta certi personaggi bisogna andarli a pizzicare nei momenti in cui si lasciano andare. Era la presentazione sabato scorso di un libro di De Magistris a Roma in una libreria. Sostiene la De Gregorio, tesi leggermente bizzarra, che insomma, meno male che ci sono le donne adesso candidate, perché così non avremo i problemi che hanno gli uomini, cioè dire prostituzione, una sorta di satiriasi continua... incontinenza sessuale e quant'altro. Dunque, avanti le donne, non fosse che per questo. Il caso di Marrazzo, il caso della D'Addario, il caso di Del Bono. Benissimo, c'hanno tutti quanti un problema di compensazione, diciamo. Questo io lo capisco. E vorrei, anche per questo sarebbe l'ora di far andare avanti le donne, che questo problema, le garantisco, non ce l'hanno. Non si distraggono, si distraggono meno. Sono molto contenta della battaglia nel Lazio, dove comunque vada vincerà una donna. Vediamo le donne si distraggono meno, la nuova battaglia della De Gregorio. Eccoci qui, 18:47, 800 24 00 24. Pasquale da Genova, buonasera. Signor Cruciani, allora, due cose. Su Mucino voglio dire solo una cosa, nessuno almeno mi sembra che l'abbia detto. Secondo me è tutta pubblicità anche per il film che ha tirato fuori adesso, dai, diciamoci la verità. Dice delle baggianate e basta. Per quanto riguarda invece Romano Prodi, il PD non ha neanche il coraggio di dirglielo chiaramente se vuole candidarsi come sindaco di Bologna. Glielo manda a dire tramite i giornali, sta roba qua. E invece per quanto riguarda la De Gregorio... Cioè, secondo lei, mi scusi un attimo Pasquale, Bersani non dovrebbe prendere un'iniziativa diretta, chiamare Prodi e dire scendi in campo... Ti vuoi candidare come sindaco? Invece no. Glielo manda a dire tramite i giornali, così... Però infatti Prodi stamattina cosa ha detto? A me nessuno mi ha detto niente, quindi per me non c'è niente. Sì. Nessuno gli ha chiesto. Ma a lei piacerebbe l'ipotesi? Sinceramente, diciamo, no? A lei piacerebbe l'ipotesi, Pasquale? Sinceramente no. Sinceramente Prodi non lo vedrei come sindaco, non lo vedo come sindaco Prodi. Sì. E invece, un'altra cosa, io ho provato a chiamare parecchie volte, no? Per quanto riguarda un articolo di Libero sulla Bonino, no? Sì. Dei candidati sindaco di Roma, del Lazio, sì, diciamo, no? Che ha fatto l'operazione Trasparenza Belpietro, diciamo così, scrivendo sul giornale tutto quello che possiede la Bonino, ma non l'ha fatto lo stesso con la Polverini, che sarebbe giusto farlo anche per la Polverini, ma anche per altri, no? A dire questo è il candidato, a questo, quello, quell'altro possiede questo. Diciamo un'operazione trasparente che sarebbe... Sì, Pasquale, farla. Bisogna anche dire che ci sono dei giornali che hanno una ragione sociale ben precisa, per cui di cosa si stupisce? Diciamo l'ha fatto in modo volgare, ha creato fuori anche una fotografia della Bonino di 30 anni fa. Ma io non credo che ci sia volgarità. Guardi, non credo che ci sia volgarità, però non bisogna... Bisognerebbe farla per tutti. No, ma non è questione di trasparenza. Pasquale, qui non è un pranzo di gala, non stiamo a ricevimento di chissà quale festa. Ogni giornale, naturalmente certi giornali hanno una ragione sociale ben precisa, dunque è normale che Libero faccia le pulce alla Bonino, come è normale che l'Unità o non so Repubblica facciano le pulce alla Polverini. È successo per esempio per la questione delle firme sindacali. Poi ogni tanto si hanno delle sorprese anche da questo punto di vista. La ringrazio. Michele da Napoli, buonasera. Sì, salve, buonasera Cruciani, grazie per avermi richiamato. No, semplicemente una nota, diciamo. Sono spesso viaggio in autobus e guardo anche ciò che accade intorno a me e, come lei avrà visto, immagino, nelle città, c'è questa immagine di Bersani che dice per un'Italia diversa. Poi ti alzi la mattina, leggi il giornale e vedi che sostanzialmente in Campania chi ti candidano, chiamo da Napoli, ti candidano Vincenzo De Luca, cioè una persona rispettabilissima, sì, certamente, però non tutti sanno che è stato rinviato due volte a giudizio. E allora? Per associazione a delinquere, con cui allora? Falso tuffo. E allora semplicemente, diciamo, il PD non può ergersi in questo frangente della nostra democrazia a tutore di... No, mi scusi Michele, voglio capire, secondo lei non può ergersi a tutore della moralità? Ma sicuramente immagino queste un cose. Candidato come De Luca in campagna, diciamo, dopo Bassolino, come dire, lascia un po' esterrefatto. E perché, mi scusi? Ma semplicemente perché è vero. Perché è rinviato a giudizio? Ma no, se a lei le sembra poco, a me sembra abbastanza no, grave. No, io sono super garantista, le dico subito. Garantista sì, ma farsi da parte nella gestione della cosa pubblica quando hai alle spalle comunque una inchiesta mi sembra come minimo. Diciamo, no, non è secondo me non è affatto così, questa è la barbarie più assoluta. Pensare che uno si possa fare da parte semplicemente no. Perché è rinviato a giudizio. Vorrei vedere se lei si facesse amministrare dal condominio, da un capo condomino che sostanzialmente è, come dire, perlomeno intenzionato ad agire diversamente da quelle che sono le normali intenzioni. Ma guardi che uno non è mica condannato. Certamente, De Luca, allora, stiamo, secondo lei è già condannato? Stiamo parlando della regione Campania, stiamo parlando. Allora, io Michele su questo sono abbastanza intransigente. Penso anzi che il Partito Democratico abbia fatto in Campania, se la scelta verrà mantenuta eccetera, una mossa molto importante, una scelta molto importante che fa cadere molte barriere, secondo me. Cioè l'avere candidato il sindaco di Salerno, uno di quei sindaci considerati degli sceriffi perché vuole semplicemente imporre o tentare di imporre l'ordine a casa sua e cercare di far andare le cose più o meno bene dal punto di vista dell'ordine pubblico in città, e averlo candidato nonostante due rinvii a giudizio, ma è una persona innocente, a governatore della Campania, penso che sia una mossa molto importante, che io per esempio apprezzo moltissimo. Sì, ma ripeto, siccome sono rinvia giudizi per associazione a delinquere, concussione, falso e truffa, come dire, nel PD si è giocata una carta un po' male. Ecco, secondo lei male, secondo me bene, ha visto? La pensiamo diversamente. Ma secondo lei male, vedremo le elezioni quando perderà il PD e il PDL, giustamente. Ma quello è un altro discorso, magari De Luca perderà per altri motivi. Non... Ma no, perderà per questo, perché abbiamo bisogno di persone oneste. Lei è così, per cui lei ha già dipinto De Luca come un disonesto. No, non l'ho dipinto io, lei dice, abbiamo perso... No, mi scusi, lei ha detto, abbiamo bisogno di persone oneste. Dunque lei ha già detto che De Luca no, è un disonesto. No, persone oneste che non abbiano a che fare... Ho capito, dunque secondo lei è disonesto. Onesto De Luca, secondo assolutamente lei? Assolutamente no, è un'indagine in corso su di lui, mi sembrava come minimo. Come dire, dunque, cosa basta? Secondo noi, andiamo un po' nello specifico, Michele, perché questo è interessante. Secondo lei, basta che c'è un'indagine, uno non si deve candidare? Ma assolutamente sì, per trasparenza. Benissimo, per perfetto. Allora, questa è un'idea, secondo me è una barbarie assoluta, una cosa del genere. Ma per me è una barbarie, per me si chiama trasparenza. Secondo lei si chiama trasparenza? Benissimo, la pensiamo diversamente. È consentito pensarla diversamente? È oppure... consentito pensarla diversamente, però da parte degli organi dirigenti di un partito che voglia essere, come dire, l'antitesi del berlusconismo, come minimo da ridere questa candidatura. Mm. Va bene Michele, grazie. Grazie a lei. Grazie. Piero da Padova, buonasera. Dottor Cruciani, buonasera. Dica. La settimana scorsa diversi ascoltatori hanno manifestato l'opinione che il ministro Brunetta non dovesse fare il sindaco di Venezia. Oh Brunetta, Brunetta, lei lo sa che senza un Brunetta al giorno noi ci sentiamo male. Più tardi, verso le 19:15 ascolteremo un altro degli show di Brunetta. Sa che Brunetta è particolarmente prolifico da questo punto di vista, cioè dal punto di vista mediatico, soprattutto durante i weekend, non solo perché ha una trasmissione radiofonica, ma perché credo che sabato o domenica sia andato in giro, forse a Venezia, a fare un primo comizio on the road. E dunque Carnevale adesso, quindi ha anche parecchie persone che lo possono ascoltare in più. Certo. Allora dunque su Brunetta dunque, cosa ci voleva dire? No, io volevo dire che non sono d'accordo con quelli che hanno manifestato l'opinione che il ministro Brunetta non dovesse fare il sindaco di Venezia, perché a mio avviso questi ascoltatori non hanno tenuto conto della situazione particolare di Venezia, cioè dei costi di manutenzione, di gestione di immobili privati, pubblici, della difficoltà di movimento, della frequenza degli interventi per il degrado prodotto dal moto ondoso, dalla salsedine, per i disagi nei trasporti, la nebbia, le maree, poi per le grandi opere che sono necessarie, dal Mose ai ponti, al rinforzo delle rive, all'escavo di canali. Per cui, dicendo così, con una parola provocatoria, direi che Venezia, anche lo dico a nome di alcuni miei amici con cui ci siamo consultati, ha bisogno di un grande questuante, cioè di un interlocutore che col governo e con l'Europa possa in maniera autorevole... Ho capito, dunque ci vuole un sindaco ministro. Sì, ci vuole il leone che alzi la coa perché le altre bestie sbassa la sua. Vabbè, insomma, mi sembra un'espressione fantastica la sua. Piero, ma noi non vogliamo aspettare fino alle 19.15, allora il Mazinga Brunetta del giorno. Il ministro più amato degli italiani, grande successo, grande impegno, grande lavoro, grande divertimento, ma perché mai mi sono buttato in questa avventura? Perché è la mia città, perché lo faccio per amore. Lei è nato qui? Assolutamente, non in questo quartiere, qui siamo a Dorsoduro, a Cannareggio, un quartiere un po' più proletario. Perché ci tiene a dire che lei è nato povero? Ma perché è la verità, perché tutti pensano che i politici siano uomini di potere. Non ci tengo, è la mia storia. Figlio di un venditore ambulante, ho fatto il venditore ambulante e mi sono fatto da solo. Oggi è la passeggiata, mi sono sbagliato, è intervista a Studio Aperto raccontando di sua madre, suo padre, è nato povero, eccetera, eccetera. Mazinga. Cosa le manca di quella Venezia? Mi manca mia madre. Perché sua mamma? Perché è stata mia madre e mio padre. Sono stati i pilastri della mia vita, così come la mia famiglia, i miei fratelli. Però mia madre mi ha dato l'imprinting, perché mia madre era determinata e buona. Era intelligente e operosa. Non c'è che forte più di te, Mazinga. Beh, insomma, un Brunetta ai massimi livelli, passeggiata a Venezia con telecamere e intervista, come avete sentito, molto intima, molto personale. La madre, il padre, sono nato povero. Eccoci qui, 1917 800 24 0024, il numero di telefono come al solito per chiamarci in diretta. I titoli del TG3. Berlusconi a Gerusalemme, sogno Israele nell'Unione Europea, l'incontro con Netanyahu e la visita al Museo dell'Olocausto. Prodi esclude una candidatura a sindaco di Bologna, non sto cambiando idea, dice Bersani, sarebbe l'ideale, ma rispettiamo le sue scelte. Massimo Ciancimino al processo Mori parla di Provenzano, della trattativa Stato-mafia e degli investimenti dei boss. conoscenza e forse compiacenza da parte del Sismi nel sequestro Abu Omar, lo scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza. Barack Obama parla alla nazione, 10 anni sregolati ci hanno profondamente indebitato, ora è per tutti il momento di stringere la cinghia. Affidato a una comunità terapeutica, Massimo Tartaglia arrestato per l'aggressione a Berlusconi, la madre sono sollevata. Ancora insulti razzisti a un calciatore, è successo a Terni, l'arbitro non interviene, il presidente ritira la squadra. In Gran Bretagna, bacchettato dal ministro dello sport il calciatore Terry, marito infedele, Capello deciderà se togliergli la fascia da capitano. E siamo qui con i titoli di Sky TG24. Berlusconi a Gerusalemme da Netanyahu, sogno Israele nell'Unione Europea. Fabbisogno a gennaio avanzo di 4,2 miliardi, retribuzioni più su dell'inflazione. Lavoro settimana cruciale, stasera il tavolo su Eutelia e Omega, domani al COA. Bologna, Prodi dice no alla candidatura, Bersani prende atto, ha fatto altre scelte. I soldi della mafia investiti su Milano 2, rivelazioni shock del figlio di Ciancimino. Sequestro Abu Omar, secondo il giudice il Sismi sapeva, ci fu compiacenza. Tartaglia ai domiciliari in comunità il 13 dicembre, ferì Berlusconi in Piazza Duomo. L'Italia è il maltempo, gelo, ghiaccio, neve, almeno fino a giovedì. Haiti, terza vittima italiana, Port-au-Prince, la portaerei Cavour con l'ospedale da campo. Calcio chiude il mercato di riparazione, Mancini in prestito al Milan, Mariga all'Inter. ...800240024 Concita De Gregorio, direttore dell'unità, sentite. Chi è sto piccerino? Mio figlio mio. Sono ricominciate le scuole, mio figlio, quello piccolo, stamattina in macchina mi diceva: ma una cosa se la fa il presidente, allora si può fare. Se lo dice il figlio del direttore dell'unità, vuol dire il che... Lodo deve... Alfano, il Lodo Alfano. No, scusa, è... lo direbbe scusi, più. Direttore, no, ma suo figlio si occupa del Lodo Alfano, sì, quanti no, anni ha? Mio figlio... Beh, insomma, avete sentito una delle sue performance a Ballarò, c'era anche il ministro Tremonti. Sulle donne in particolare, le condannano a appartenere a quel modello oppure essere escluse. E quindi noi dobbiamo, in nome di chi non è così, chi non si è fatto raccomandare, di donne normali che non hanno utilizzato il loro corpo per ottenere un seggio, una casa, una... Non si può fare mercanzia di questo. È veramente tristissimo, ma non tanto per noi quanto per i figli dei nostri figli. Ma i ragazzi, io ho dei ragazzi, un figlio di 20 anni, uno di 16, come dire, per loro come andranno le cose? Come potranno in questa logica una ragazza, come potrà pensare per esempio di farsi, di ottenere una soddisfazione da quello che... da quello per cui ha studiato, sulla base di quello che ha imparato, sulla base delle sue capacità, del suo talento. Non è più possibile, è un pensiero marginale. E i ragazzi lo sanno meglio di come lo sappiamo noi. Davvero su questo ci vuole una rivoluzione culturale, una ribellione culturale. Beh, insomma, avete sentito, ci vogliono nuovi valori, perché da una parte ci sono le donne normali e dall'altra parte ci sono le donne che utilizzano il loro corpo. Vabbè, se avete capito qualcosa ditemelo, comunicatemelo, intervenite. E poi c'è la solita cosa sulla P2, sull'incontinenza sessuale e conclusione, l'autocontrollo, una cosa fondamentale per i politici, bisogna avere l'autocontrollo, sentite. Parliamo anche dei temi diciamo di politica generale, ci torniamo subito, insomma, che si stia realizzando il disegno di Gelli e della P2 è sotto gli occhi di tutti, che ci sia un problema di culturale, di rivoluzione culturale da fare è altrettanto evidente, e che ci sia comunque, diciamo, che parte dall'alto l'esempio di una corruzione eletta a sistema per cui tutto si compra e quello che non si può comprare si disprezza, e quindi con i dossier, con i falsi dossier, con i veleni, con le campagne di stampa. Diciamo, il metodo è questo, ed è un metodo che fa di ogni erba un fascio, no? Anche per restare soltanto a questa vicenda dell'incontinenza sessuale, diciamo così, come la vogliamo chiamare, no? Perché c'è un problema, non so, diciamo tecnico. Cioè, no, diciamo, io l'autocontrollo esiste, invece questa l'hai fatta tu, a case, signore. Va bene, va bene. 800 24 00 24. Chiudiamo con la De Gregorio, anche se naturalmente ce ne saranno altre nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, perché così la teniamo, la teniamo in osservazione. Brunetta Mazinga. Vabbè, insomma, per concludere l'epopea di Brunetta oggi a Venezia, è la prima uscita insieme a un giornalista, era un giornalista di Italia 1 e dunque intervista a Studio Aperto, sentite come si conclude la vicenda. In diretta, in diretta, eccolo qua, questo è il mio programma. Io ce l'ho il programma, i miei avversari non ce l'hanno, evidentemente non si sono ancora messi d'accordo. Finalmente vuol dire che la votano come per spero, no, no, spero, spero, questo dipende dai veneziani, mica da me. Se mi vogliono mi votano adesso, se mi vorranno mi voteranno anche dopo, ma quello che conta sono le cose che uno vuol fare, le idee. Mazinga, provò. Mazinga. Naturalmente ci voleva un ricordo del padre, assolutamente, sentite. Ma io ho imparato da mio padre, ecco, mio padre mi ha insegnato l'etica del lavoro. Non sapeva che si chiamava etica, ma me l'ha insegnata, nel senso che lavorava più di tutti, dalla mattina al giorno, dalla mattina alla sera. È tutto per la famiglia e devo dire grande insegnamento. Vabbè, ma a parte Venezia su cui si è esercitato oggi a passeggio per la città insieme a un giornalista, Brunetta, c'è un Brunetta che nella sua trasmissione domenicale su RTL torna sulla vicenda della candidatura e dice: siccome c'è l'ok di Berlusconi, la grande fiducia di Berlusconi, allora insomma si può fare. Il presidente Berlusconi mi ha chiesto assolutamente in maniera chiara di candidarmi a Venezia, però di continuare assolutamente a fare il ministro. E questa è la posizione ufficiale, su questa non si ci saranno deroghe o eccezioni di nessun tipo. Beh, questa era la conversazione su RTL e Brunetta risponde, sentite come, sentite. Io in questo momento sono con una vestaglia pesante, a casa mia ci devono essere circa 20 gradi, non è freddissimo ma neanche caldissimo, penso che questa sia la temperatura fisiologicamente corretta. In Parlamento devo dire non ho mai sofferto il caldo. Naturalmente Brunetta dice la sua rivoluzione nonostante Venezia andrà avanti. La mia rivoluzione va avanti come dire, con grandi accelerazioni, ne vedrete di interessanti nelle prossime settimane, quindi io ho un impegno, ho preso un impegno con 60 milioni di italiani e lo porterò a termine, quindi ancora 3 anni abbondanti e ne vedremo delle belle in 3 anni abbondanti. E ancora, insomma, per la candidatura a Venezia bastano Berlusconi e la salute. Spero di avere buona salute per fare le due cose insieme, la volontà c'è, la determinazione c'è, ma soprattutto c'è, come dire, la richiesta, la fiducia, lo sprone del Presidente del Consiglio Berlusconi. Va bene, 19, 27, 40, 800, 24, 00, 24, abbiamo chiuso su Brunetta. Una piccolissima cosa che riguarda Lucia Annunziata e Niki Vendola, perché c'è una polemica. Maurizio Gaspari dice no, bisogna dare lo stesso spazio ai candidati del centrodestra, al candidato del centrodestra. Innanzitutto Vendola ieri dell'Annunziata. Buongiorno Nicky Vendola. Buongiorno. Al momento unico candidato governatore per la Regione Puglia, anche per il PD. Vabbè, insomma, questa è la presentazione di Vendola. Poi le polemiche. Polemiche, secondo me, ridicole, perché l'annunziata giustamente risponde: io ho un equilibrio generale e invito chi voglio. Non siamo in periodo di par condicio e dunque non capisco perché non si possa invitare uno dei personaggi più discussi a livello nazionale, non a livello locale, negli ultimi 15-20 giorni, un mese. Un personaggio che ha fatto anche traballare il Partito Democratico. No, secondo Gasparri bisogna invitare anche Rocco Palese. Chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Siamo qui 19.33, 800 24, 00 24, ma in fondo nel grande dibattito che si è aperto da tempo a sinistra, chi ha ragione? Concita De Gregorio? Il caso di Marrazzo, il caso della Daddario, il caso di Del Bono. Benissimo, c'hanno tutti quanti un problema di compensazione, diciamo, questo io lo capisco. E vorrei, anche per questo sarebbe l'ora di far andare avanti le donne, che questo problema, le garantisco, non ce l'hanno. Non si distraggono, si distraggono meno. Sono molto contenta della battaglia nel Lazio, dove comunque vada vincerà una donna. Vediamo come va. Oppure Sabrina Ferilli? Mettiamo, diciamo, anche noi come Forza Italia, più gnocche nelle liste, magari porta bene, chi lo sa? Però è una buona idea. Scusi, adesso qui se devo mettere più gnocche nelle liste, lei deve candidarsi per forza, signora Ferilli. No, io ho passato quel periodo, io sto in balcone. Questo qualche giorno fa, un giorno da pecora, va bene. Andiamo a Milano, Fabio, buonasera. Buonasera dottore. Dica. Volevo fare un intervento a proposito della Concita De Gregorio, sì, sulla sua proposta di puntare di più sulle donne. Effettivamente la condivido, sia perché stimo molto il direttore dell'unità. Sì, attenzione Fabio, volevo correggerla. Sì, è vero, lei dice puntare più sulle donne, ma dà anche una spiegazione. Ce ne saranno altre sicuramente, però insomma, no, in questo intervento dice bisogna puntare sulle donne perché poi non hanno questi problemi che hanno gli uomini, cioè scandali sessuali, incontinenza. Poi ha detto un'altra parola che non ho capito bene, che ha detto compensazione. Che vuol dire? Perché il sesso, no, comunque la ricerca spasmodica di avventure come compensazione di cosa? Beh, insomma, non l'ho capita questa. In ogni caso, insomma, le donne sono più affidabili da questo punto di vista. Ma io condivido, sì, perché in effetti noi come uomini non abbiamo dimostrato in politica una grande affidabilità. Se pensiamo agli ultimi avvenimenti, diciamo che ne abbiamo combinati di ogni. Effettivamente sarebbe l'occasione di provare, di mettere alle prove le donne in ruoli di potere veri, non fittizi, non cose di secondo livello, e vedere un attimino come si comportano, perché per ora obiettivamente noi uomini, diciamo, non abbiamo fatto una gran bella figura, specialmente nei confronti dei politicanti stranieri che sono di uno spessore ben diverso da quelli italiani. Dunque, secondo lei ha ragione la De Gregorio, avanti le donne, sì, perché non hanno problemi sessuali. Ma diciamo, quantomeno proviamo, ecco. Va bene, grazie. Marino da Rimini. Buonasera. Marino ci chiama da Rimini, buonasera. Buonasera. Dica, Marino. Dunque, io sono letteralmente d'accordo con la De Gregorio. A proposito, oggi mi trovo in minoranza. Ha parlato di delirio della De Gregorio, certo che Brunetta ce ne ha fatte di cose di crude, ce ne ha fatte sentire. Se non è delirio quello, lasciamo perdere. Allora, io, Marino, scusi, ho detto delirio, forse esagerando, ma perché si è dilungata la De Gregorio in tutta una spiegazione, infatti, sulle donne oggetto, eccetera, eccetera, che mi è sembrato un po' delirante, insomma, secondo me. Però, insomma, sicuramente esagerato. Anche Brunetta ogni tanto delira, ma forse delirio. Però Brunetta lei ce lo fa sentire e ce lo smiena. Infatti fa il delirio. No, guardi che, ripeto, sulla ipertrofia mediatica, chiamiamola così, di Brunetta ci scherziamo, lo prendiamo in giro ogni sera. Per cui è comodo, basta parlarne. No, ma ne parliamo anche della categoria, da questo punto di vista va bene. Parla molto di Brunetta. Va bene, Marino, cosa mi vuole dire? Io le volevo dire che io sono d'accordo con la De Gregorio perché in genere le donne si sono sempre comportate meglio. Tolta quella signora di Pavia, moglie di un onorevole, che per uscire di galera credo abbia pagato 1.200.000 euro. Ah, lei parla dell'assessore di Pavia. Non parla mai. Ma no, di casi così non c'è occupa. Marino, cosa vuole che le dica? Non parlo del caso della Belli, che era Belli, si chiamava il... Non so come si chiama, sì, non me la ricordo. Poi c'è un altro signore. La signora Belli. Lombardia. che credo sia ancora dentro, ma anche di quello non se ne parla. Va bene, Marino, lei è dalla parte della Gregorio, della De Gregorio, ho capito. La smena con Brunetta. C'è la smena, è bellissimo. C'è la smena, c'è la smena in dialetto romagnolo strepitoso, Marino. Va benissimo, la grazie, ringrazio. Grazie a lei. Gianluigi da Bologna, buonasera. Buonasera, sì. Devo dire che a parte gli altri interventi che ho sentito della De Gregorio, su questo argomento specifico della assoggettabilità dell'uomo più che della donna agli assalti sessuali, devo dire che la mia esperienza professionale nelle aziende, nel mondo delle amministrazioni, mi porta a darle abbastanza ragione. Cioè, no, mi scusi, no. Però Gianluigi, siccome mi avvertono che ci sono moltissime telefonate praticamente dello stesso tono, sì. Allora vorrei capire, cioè, secondo lei ha ragione, no, perché per me è una sorpresa una cosa di questo tipo, secondo lei ha ragione il direttore dell'unità quando dice, non è che dice in generale, questo è comprensibile, lei è una donna, poi è sempre è pronta, no, a ingaggiare battaglie per dare maggiore spazio alle donne in tutti i settori, e questo va benissimo, per carità, però dice un'altra cosa da De Gregorio, dice siccome gli uomini sono più soggetti agli scandali sessuali, l'incontinenza sessuale, eccetera eccetera, allora è meglio candidare le donne, perché da questo punto di vista, vabbè, danno affidabilità. È un'estremizzazione, una provocazione. È quello che dice, non è una provocazione. È una provocazione, però fra gli argomenti che possono essere portati a favore di una candidatura femminile non è un argomento banale questo. Lo considero, per l'esperienza che ho avuto nel mondo delle aziende e delle amministrazioni, un elemento da tenere in considerazione. Varrà l'1%, 2%, il 5% nella valutazione delle situazioni in cui si trovano, però indubbiamente le donne sono accanite nel catturare l'uomo di potere, per cui lo sottopongono a pressioni incredibili dal punto di vista sessuale. No, no, mi faccia capire però, Gianluigi. Allora, secondo lei sono più affidabili perché? Perché sono meno assoggettabili a questo tipo di pressione. Per cioè, secondo lei una donna di potere, che ne so, una sindachessa, un presidente di provincia, e questa sarebbe materia per la nostra cara amica presidente della provincia dell'Aquila, pezzo pane, magari la chiamiamo domani, forse, vediamo. Comunque, insomma, l'argomento è questo. Secondo lei una donna che ha un potere importante, diciamo, un presidente di regione, un presidente di provincia, un sindaco, ma anche, insomma, sono queste, trova meno uomini che la assalgono per quanto riguarda la ricerca di affiancamento al potere, mentre gli uomini, cioè, ci sono meno scandali sessuali che riguardano le donne, forse perché ci sono meno donne, allora allora devo dire che per la mia esperienza percentualmente, mentre trovo nelle aziende molte situazioni di dirigenti, capi, proprietari che sono esposti e si lasciano attrarre in situazioni di ricatto sessuale, trovo che questo avvenga molto meno in presenza di donne in ruoli di potere. Sì, però Gianluigi, adesso lasciamo perdere le aziende private, eccetera, eccetera, un altro discorso. Per quello che riguarda i posti di potere, diciamo, pubblici, della politica, secondo me la spiegazione è questa. Essendoci poche donne, è difficile pure che ci sia una percentuale consistente di persone implicate in scandali sessuali. Va bene. La ringrazio. Stefania da Genova, ecco una donna che spunta. Buonasera. Dica. Buonasera. Sì, io mi trovo, direi, in linea con i precedenti interlocutori, pienamente in linea. Tanto che forse, ma probabilmente per una mia mancanza, non ho capito perché la questione è stata posta, perché mi sembrava abbastanza evidente. Cioè cosa? Nel senso che evidente il fatto che una donna difficilmente, trovandosi al posto di un uomo, non usa il ricatto sessuale o comunque lo strumento sessuale per ottenere determinati risultati. Forse perché ne è sempre stata vittima e forse perché magari ad altre leve più, come dire... No, però qui non parliamo di strumenti che una donna può utilizzare quando è al potere, eh. Qui parliamo di un'altra cosa, cioè la possibilità di cadere in tentazione, la possibilità di perdere il controllo, cioè la possibilità che una donna di potere, mi scusi, poi la faccio proseguire, la possibilità che una donna di potere faccia che cosa? Insomma, abbia delle storie, diciamo, extraconiugali, dunque possa essere in qualche modo ricattabile o comunque possa piombare in quelle storie che poi possono compromettere, come è successo il caso del sindaco di Bologna Del Bono, possono compromettere la vita pubblica. Allora, da questo punto di vista, secondo lei è vero che la donna ha meno tentazioni, come dice la De Gregorio, o no? E dunque bisogna candidarne di più? Ma secondo me sì, ha meno tentazioni, perché come le diceva non usa quindi l'aspetto sessuale come strumento, poi rivolto, no, a secondo di uno degli obiettivi che si pone, rivolge questo strumento a seconda appunto di quello che vuole ottenere, o comunque e non è comunque un elemento determinante sensibile, cioè forse destina questo aspetto della sua vita ad altro e non all'ambito, come dire, pubblico, nel caso di un personaggio pubblico, come elemento del suo potere rivolto in, appunto, in vari sensi. A mio avviso io condivido appieno e comunque sia anche la figura della donna che vuole essere fatta passare di donna strumento, cioè un concetto molto medievale di donna. Secondo me, e secondo lei chi è che vuole fare passare questo concetto di donna strumento, di donna oggetto, eccetera? Ma mi sembra c'è che ancora una mentalità di questo tipo? Esiste, è stata, come dire, attualizzata, come dire, dal punto di vista dell'aspetto esteriore e dei termini tra i quali si muove, però come donna oggetto è sempre stata, ma io lo vedo moltissimo in quello che è un atteggiamento che può avere una corrispondenza con una mentalità di destra, perché la donna è uno strumento. Ricordiamoci ad esempio che in consultazioni elettorali abbastanza recenti Forza Nuova, che abbiamo visto sventolare le bandiere ai congressi di Forza Italia, proponeva e questo l'ho ascoltato io con le mie orecchie, cioè, Forza Nuova sventola bandiere, proponeva il fatto che le donne dismettessero il lavoro con un aiuto, con un contributo, e si occupassero solo della famiglia. Questo mi sembra mica più che medioevale. No, mi scusi Stefania, queste sono da lì ad arrivare, scusi un attimo, alla donna oggetto il passo è veramente breve. Ma, insomma, c'è poi uno sviluppo in questo. Vabbè, io non credo che sia così, ma comunque insomma, lasciamo. Ma lei si ricorda di Forza Nuova che sventolava le bandiere durante il congresso di Forza Italia? Sì, ricordo molto chiaramente con testi di Forza Italia pubblici, comizi, chiamiamoli come vogliamo, in cui ho visto sventolare le bandiere, e in concomitanza una dichiarazione di Roberto Fiore che faceva questo tipo di proposta, che io a dir medievale è ancora... Ma insomma, aiuti alle donne, mi scusi un attimo, Stefania, aiuti alle donne per la questione della maternità non mi sembrano proposte medievali, poi uno le può considerare sbagliate, giusto o sbagliate, ma insomma medievali mi sembra esagerato. Va bene, grazie. 800 24 00 24. È con noi dalla sua casa di Roma, se non sbaglio, Sandra Leonardo. Buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Oddio, bene, grazie. Sto preparando la cena. Senta, ma mi dica una cosa, è confermata la sua candidatura in Campania oppure no? Guardi, credo di sì, perché noi facciamo la lista dell'Udeur, io sono candidata all'interno della lista dell'Udeur in coalizione col centrodestra, appoggiando il presidente candidato Stefano Caldoro. Dunque lei sarà capolista dell'Udeur in Campania, possiamo dirlo? No, non è così, guardi, no. Perché no, sarà candidata dica lei, al momento, chiedo, sono candidata nel collegio di Benevento in provincia. Non sarà capolista allora? Vedremo. Capolista non lo so, credo di sì. Se non è capolista lei dell'Udeur. Ma dico sempre a Benevento e provincia. Ah, beh, certo, ci sono i collegi, certo. Diciamo. Lei parlava della Campania, al momento soltanto Benevento e provincia sono candidata e sto facendo la campagna in quella circoscrizione elettorale per le regionali. Senta, ma ci sarà anche un listino, no? Può darsi che lei sia nel listino? Guardi, no, il listino non c'è in Campania, non perché c'è. Proprio durante la mia presidenza, questo è bene che si dica, che è stata fatta una battaglia in Consiglio regionale per abolire il listino e per fare in modo che tutti possano andare, tutti i candidati sui territori per conquistare. Oh, questa è una bella cosa, perché io considero il listino, che è, per lo ricordiamo per gli ascoltatori, quella sorta di posto blindato che se qualcuno viene eletto, diciamo, non so quanti posti in questo listino sono assicurati. Ma in effetti il listino nasceva per dare la possibilità al presidente eletto di avere intorno a sé una come dire, un gruppo di persone che lui aveva scelto per aiutarlo evidentemente nell'espletamento del Insomma, posto. Avete capito? Sandra Leonardo, che viene da alcuni presentata insieme alla famiglia Mestella come emblema della casta in Italia, eccetera, eccetera, ha abolito il listino. No, così, guardate, le caste sono ben altre. No, ma io sto dicendo un'altra cosa, stavo certo. Ironizzando su questo, sto dicendo, insomma, viene presentata così e invece... È stata quella che ha diminuito anche le spese, oggi sento parlare di... spese via internet, tagli alle spese di rappresentanza, tagli alle consulenze. Lei ha tagliato l'unica le spese cosa dove? Vera, l'unica cosa vera che in Italia, perlomeno che io sappia, ma perlomeno in Campania è così, l'unica che ha tagliato le spese realmente è stata Sandra Lonardo Mastella. Le spese come presidente della regione Campania. Esattamente, sia di rappresentanza sia sulle consulenze abbiamo trovato il 30%. Io ho fatto chiaramente la proposta, l'ufficio di presidenza l'ha accolta. È passata come cosa? Ed è passata poi il consiglio regionale, ma già da l'anno scorso, addirittura l'anno precedente. Quindi voglio dire, di senta, cosa ma che vogliamo parlare? Parliamo di quello che sta cucinando. Io in questo momento sto cucinando delle polpettine fatte con gli spinaci e la carne macinata. Beh, insomma, è una cosa eccezionale. Polpettine, scusi, non ho capito bene, con... Le polpette, invece di mettere soltanto, diciamo, l'uovo e il formaggio e il prezzemolo con un po' di latte e un po' di pane, voglio dire, tostato, metto anche gli spinaci, molti spinaci. Vede che avere l'obbligo di dimora in un altro posto può avere anche può avere dei vantaggi, ma oltre a queste splendide polpette che insomma poi mi darà la ricetta in separata sede, ma cosa si mangia stasera a casa Mastella? Queste polpette con l'insalata. Polpette con l'insalata, dunque una cosa che insomma non particolarmente pesante la poi sera. Poi vengono cotte nel sugo, però quindi ci sarà questo sughetto di accompagnamento. E chi c'è stasera? Solo lei e suo marito? Sono io con i miei figli. Ah, lei con i suoi figli. Suo marito non c'è stasera. No. Senta, ma come si fa la campagna? Come pensa di fare una campagna elettorale? Perché i voti bisogna prendere. Ma mi dia qualche consiglio, perché io vado alla ricerca di chi mi dà consigli, perché il fatto di pensare di essere lontana a fare la campagna elettorale, appunto, un po' devo dire, mi scoraggia. Però io, per chi mi conosce... non si perde d'animo. Coraggio, no, mai. E allora, a parte abbiamo letto di Facebook, tutti i contatti, eccetera, eccetera. Ma insomma, mi dirò che si sta rivelando un modo per avvicinare la gente in modo discreto, perché io invio soltanto messaggi e via mail e le persone mi rispondono via mail. Sulla bacheca c'è ben poco, chiaramente, tutto il lavoro è un po' nascosto, diciamo. Sì. E invio dei messaggi a tutti quelli che sono della mia circoscrizione elettorale, e devo dire che sto avendo tantissimi riscontri. La cosa chiaramente che mi colpisce moltissimo è che sono tantissimi giovani. Senta, però voglio chiedere una cosa. Lì in realtà che cosa funziona, che cosa funzionerà? Lei ci sarà sulla scheda, insomma, nel collegio di Benevento il nome di Mastella è ancora importante, conosciuto, per cui sicuramente ci sarà Sandra Lonardo in Mastella e dunque quello funzionerà, penso, più di ogni altra cosa. No, io sa che cosa invece credo che funzionerà. Se funzionerà, cosa? È il fatto che io sono stata sempre vicina alla mia gente, cioè nessuno può dire Sandra Lonardo Mastella è stata la persona che ha preso solo i voti ed è andata via nel modo più assoluto. Io ho fatto battaglie, ma ancora prima ho lavorato sia a livello provinciale, regionale e nazionale nella Croce Rossa, ho lavorato nella Lega per la lotta contro i tumori, ho lavorato nel mondo della promozione della mia città creando iniziative, voglio ricordare Uno per Tutto, Quattro Notti Più di Luna Piena, il Festival di Benevento, abbiamo arredato case per anziani, abbiamo comprato pulmini per portatori di adesso, cioè, si fermi perché sennò non la finiamo più. Allora, però le voglio dire una cosa. Allora voglio dire, aspetta, che vabbè, insomma, lei è conosciuta, tanto. Per carità, non volevo dire che era conosciuta solo attraverso suo marito, Voglio dire, sono conosciuta perché ho fatto anche tanto. Senta, però c'è un problema. Secondo me è questo. Però mi deve dire la verità su questo. Cioè, sempre la verità. Perché anche perché penso che io sono spiata da 4 anni, se non avessi detto le verità, voglio dire. Allora, bisogna fare campagna col divieto di dimora in Campania è complicato. Allora lei mi deve dire come può funzionare il divieto di dimora? Cioè il divieto di dimora come funziona? Cioè uno non può, lei in teoria non può superare la provincia di Frosinone. Mi è stato divieto di entrare in Campania, di soggiornare in Campania. E quindi anche le province, e anche in Molise, e Frosinone, pure sì, le province di Latina, di Campobasso, cioè quelle confinanti e limitrofe alla regione Campania. E chi controlla? Se lei ci va, chi lo controlla? Vabbè, a parte il fatto che voglio dire, lo sanno tutti, lo saprebbero. Ma voglio dire, perché dovrei andarci? Io sono una che si attiva per sfidare. Lei dice di essere in esilio. No, io non sfido nessuno, sia ben chiaro. Però l'esilio non è un po' esagerato, no? L'esilio. Come? Dire esilio, utilizzare la parola esilio, non è un po' esagerato? Ma sì, io sono esilio. esiliata dalla mia zona, o chiami obbligo di dimora, o esilio è la stessa cosa, comunque non ci puoi andare, voglio dire. Però poi quando penso a quelli che sono stati esiliati sono in buona compagnia, tutto sommato, no? Vabbè, però l'esilio è una cosa diversa, uno pensa all'esilio. Ma dai, no, se vogliamo scherzare, voglio dire, perché è bene che ci scherziamo anche sopra, perché voglio dire, io penso che sto affrontando con molta dignità questo momento, nel rispetto di tutti sempre, però io non vorrei farla provare sulla pelle delle persone. No, no, per carità, ma l'elemento psicologico è fondamentale, credo, no? L'elemento psicologico, cioè, è fondamentale. Psicologicamente restare lontano dalla propria casa senza andarci per 3 mesi e mezzo è veramente tanto, ma insieme a me ci sono anche tante altre persone, quindi voglio dire, non è giusto, però voglio dire, è un fatto. Senta, ma è vero che ha scritto Napolitano? Non è giusto se il fatto che in questo paese dove la presunzione dell'innocenza ti deve accompagnare fino al terzo grado di giudizio, ma questo sono d'accordo, ti danno delle pene preventive. Questa è la cosa sulla quale dover riflettere. Io non faccio una battaglia per Sandra Leonardo, io la faccio di principio. Perché ma riuscirà a ottenere una deroga, riuscirà a ottenere qualcosa per la campagna elettorale o no? Lei l'ha detto. Non lo so, io lo chiederò certamente ai magistrati, perché mi auguro che non mi vogliano far, voglio dire, creare il caso dove io non possa essere messa alla stessa strada degli altri per fare campagna elettorale sul territorio, per stringere mani, per incontrare persone, per incontrare sguardi, per fare un sorriso, per fare una richiesta. Per cucinare. A che punto sono le polpette intanto? Guardi, questa sera penso che verranno le più buone polpette della mia vita. Addirittura. Perché, ammesso che ne abbia fatte tante altre, perché le sto proprio carezzando, cioè lei parla, io sto qui col cellulare. Se le faccio questo effetto, ogni volta che mette di fare qualche polpetta sta con noi, ci racconta due cose, eccetera. Però le voglio far ascoltare una delle discussioni di giornata che ci siamo inventati, ed è questa. Il direttore dell'unità De Gregorio ha detto che ci vorrebbero più donne nelle liste, più donne come capi delle regioni, come presidenti di regioni, di provincia, cioè più donne al potere, perché cadono meno in tentazione dal punto di vista sessuale, gli scandali del Bono, eccetera, eccetera, meno in tentazione rispetto agli uomini. Sentiamo, sono pochi secondi, poi vorrei un commento da parte sua, perché lei donna è stata presidente della regione Campania, fa politica, insomma qualche risposta ce la può dare. Il caso di Marrazzo, il caso della Daddario, il caso di Del Bono. Benissimo, c'hanno tutti quanti un problema di compensazione, diciamo, questo io lo capisco. E vorrei, anche per questo sarebbe l'ora di far andare avanti le donne, che questo problema, le garantisco, non ce l'hanno. Non si distraggono, si distraggono meno. Sono molto contenta della battaglia nel Lazio, dove comunque vada vincerà una donna. Vediamo come va. Allora, Sandra Leonardo Mastella, cosa dice Sandra Leonardo? Basta Mastella. Tanto Sandra... io faccio i complimenti alle due donne che si stanno, voglio dire, per incontrare. Per scontrare, scontrare in senso buono, politico. Per scontrare di due donne, è la prima volta nella storia, cosa importante. Invece vorrei dare una notizia straordinaria che mi dico possono copiare anche le altre regioni d'Italia. La regione Campania ha una legge elettorale dove si vota un uomo e una donna. In lista? Si possono esprimere due preferenze, di cui uno uomo e uno donna. Ah, non ho capito, la regione Campania uno deve mettere per forza una donna e un uomo. Due preferenze, uno donna e uno uomo. Se uno mette due uomini, cancellato il voto. Se si mettono due uomini va il voto alla prima, il secondo via. Ma questa l'ha fatta lei, questa legge? Ha contribuito. Allora, però, chi ha ragione? Ma questo che cosa ti porta? Ad avere più donne in lista, obbligatoriamente. Ah, beh, certo. Dovunque ci devono essere donne in lista, che fino ad oggi non era così. Senta una cosa, però, ha ragione il direttore dell'unità? Secondo me, no. Che significa che le donne hanno meno tentazioni dal punto di vista? Io credo che le donne hanno un modo di porgere sicuramente diverso rispetto alla gestione della cosa pubblica, portando nell'ambito della gestione proprio un modo di fare diverso. Noi siamo, ma sessualmente hanno meno tentazioni rispetto, quindi abbiamo un modo diverso dell'approccio su questo, sono d'accordo anch'io, l'ho fatto anch'io in consiglio regionale, e voglio dire, potrei raccontare tante battaglie fatte dove io come donna mi sono imposta: o si fa così o voi fatelo senza il mio voto. Però insomma io non sono d'accordo sul fatto che le donne in genere, le donne di potere, abbiano meno tentazioni rispetto agli uomini. Può darsi semplicemente perché ce ne sono meno. Mettiamola alla prova queste donne in Campania. Le posso dire che il consiglio regionale condotto da una donna, comparando i risultati ottenuti in questa legislatura, sorprendentemente siamo al più 500% rispetto a tutte le legislature precedenti. È un risultato di donne, di presenza di donne? Di presidenti in genere, no? Sono stati tutti uomini tranne un magistrato, donna, che è rimasta per pochi mesi. Va bene, allora, candidatura a Benevento, sarà capolista a Benevento, Sandra Leonardo, grazie, le polpette per l'Udeur, vabbè. E lo sappiamo, vabbè, adesso non è che facciamo la campagna elettorale qui, altrimenti dice perché, grazie. Senta, le polpette a che punto siamo, quanto manca? Le polpette sono quasi in addirittura d'arrivo, pronti per andare in quanto tavola, manca, 5 po'. Minuti, 10 minuti, 5 quanto minuti, 5 minuti, grazie, buona serata. Grazie, buonasera, buona cena a tutti. Siamo qui, 20 in punto, TG5. Berlusconi a Netanyahu, sogno Israele nell'Unione Europea. Il premier a Gerusalemme rilancia la volontà di collaborazione tra i due popoli. Visita al memoriale dell'Olocausto. La nostra anima urla mai più. Obama annuncia un piano di tagli alla spesa per ridurre il deficit. Basta sprechi, è il momento per tutti di stringere la cinghia. Fine dei viaggi della NASA per la Luna. Come rinviare la rata del mutuo di un anno per chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o in gravi difficoltà? Tutte le istruzioni. Due giovani romeni ricercati per l'omicidio del 15enne ucciso a Torino per una sigaretta negata. Tensione e rabbia nel quartiere. Italia sotto zero, neve e gelo al nord e piogge al sud. Ingannati i meteorologi che avevano previsto un inverno mite. Italiani di nuovo a letto con febbre e raffreddore. Dante supereroe nei gironi infernali per liberare la sua Beatrice. L'inferno del sommo poeta diventa un videogioco, storia rivisitata e tanta azione. Maschere e dolci di carnevale per i consumatori, prezzi in salita, ma i negozianti smentiscono. Tra dolcetti e costumi siamo andati a verificare. Siamo qui e allora TG1. Berlusconi, sogno Israele nell'Unione Europea, al via la visita a Gerusalemme, il premier al Museo dell'Olocausto, mai più Shoah. Bologna, Prodi dice no alla corsa a sindaco, legittimo impedimento, polemiche maggioranza opposizione, Cichito al TG1, PDL coeso. Obama presenta il bilancio, deficit record, nessun taglio a sicurezza nazionale e welfare, confermati tagli ai programmi spaziali. Maltempo, ancora gelo su gran parte d'Italia, in Trentino freddo record, alto il rischio valanghe anche sull'Appennino. Incubo bagagli, nel mondo se ne perdono 90.000 al giorno, alla Malpensa un microchip sulle valigie per seguirle durante il viaggio. Interviene perfino il governo sul caso Terry, il calciatore della nazionale sotto accusa per un flirt e il capitano deve dare l'esempio, dice il ministro. Beh, questa cosa è veramente ridicola, intervento della federazione, non so di chi, del governo, per i tradimenti del giocatore del Chelsea Terry. 800 24 00 24, Maddalena, provincia di Pistoia, buonasera. Oh, buonasera Giuseppe. Dica. Dunque, allora, ti volevo dire che secondo me è una grande, come ti posso dire, velatura questa di che ha fatto la De Gregorio, perché una grande, per la mia esperienza, mi scusi, una grande, un velo. Che significa? Come ti posso dire? Non lo so, me lo dica in diciamo velatura, dunque, sarà in dialetto pistoiese, ma insomma, in italiano. Lo so. Mi sto forzando. Dunque, praticamente no, volevo dire che io sono contrario a tutti gli estremismi, maschilismo e femminismo. Lei si è incalzata nel femminismo più sbagliato a dire quell'ossa lì che ha detto lei oggi, perché io conosco una infinità di donne lesbiche assai, posso dire, diciamo, in qualche limite, pervertite. Vabbè, ma che c'entra assai... questo? Mi scusi, Maddalena, non è che si stava parlando di tutte le donne. Il ragionamento della De Gregorio è che le donne di potere, diciamo, soprattutto potere politico, credo che si riferisse a quello, perché in realtà poi ci sono vari scandali che hanno coinvolto anche donne di potere nelle aziende, sono meno, da questo punto di vista, hanno meno tentazioni, dunque sono più affidabili. Questo vuole dire, non ci sarebbero, se ci fossero molte donne in politica, non ci sarebbero continuamente gli scandali sessuali. Questo vuole dire la De Gregorio. Bene. Comunque, dunque, lei mi pare di non essere d'accordo. Secondo lei non è così. Vabbè. E poi le volevo fare una domanda, se posso, velocemente. Prego, dica, Maddalena. Volevo sapere se per caso l'arroganza che ha lei verso moltissimi degli ascoltatori, perché io l'ascolto sempre, anche se per esempio con lei, per esempio con lei sono arrogante, Maddalena? No, infatti guarda, mi stupisce, perché appunto si stupisca un po' di più, se voleva sapere se l'arroganza, una sua assenza magari in ambito sessuale che la fa essere così, può essere, arrogante, può essere, può essere, può essere. Può essere, non lo so. Ci rifletta, magari non lo so, ci... anche essere meno arrogante. Ci rifletto un po'. Ma ha appena detto che non sono arrogante con lei. Certo, capito, ma per un momento, una volta, non è l'eternità. Cioè, anche non è l'eternità, se certo. Fatto dei momenti. No, certo. Vabbè, comunque ci rifletto, grazie. Arrivederci. Mariangela da Roma, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Io volevo dire questo riguardo alla Conchita De Gregorio. È vero, le donne si distraggono di meno, ma questa minore distrazione non è legata alla diversità dei geni sessuali, è piuttosto legata al fatto che le donne sono impegnate a far sì che quella piccola posizione o quel posto di potere che hanno conquistato non glielo sottragga un uomo. Cioè, voglio dire, io penso che la De Gregorio abbia usato diciamo la metafora sessuale in un senso ben preciso, cioè lei non ha parlato di come dire, tentazioni sessuali tout court, ha parlato di scandali sessuali e tentazioni sessuali, tra virgolette, devianti, legate a un sistema di potere, cioè laddove il sesso si sposa con un uso del potere, lì probabilmente le donne sono meno sensibili, ma ripeto, lei l'ha anche detto, su questo sono d'accordo, è anche una questione di numeri, cioè il fatto che le donne siano di meno sì. Non significa che questo come dire, ci sono meno scandali perché le donne sono di meno, per me è il contrario, cioè il fatto che le donne abbiano meno accesso ai posti di potere sì. È di per sé una condizione estremamente limitante che pone le donne che ci sono nei posti di potere sì. Le obbliga a un'attenzione estrema a tutto quello nei confronti che anche delle coerenza. Ho capito sì, ma questa potrebbe essere una teoria interessante. Fabrizio Rondolino, buonasera. Ciao Fabrizio, buonasera. Come stai? Bene, bene, grazie. Allora, io ho posto un problema qui perché mi è capitato, come facciamo spesso, di sentire il direttore dell'unità Conchita De Gregorio durante la presentazione di un libro dove c'era anche De Magistris, il libro di De Magistris in una libreria a Roma sabato. E allora, andando a rovistare un po' nell'audio di questi interventi, alcuni secondo me assolutamente deliranti, ma insomma lasciamo perdere, c'è una considerazione che ha acceso un po' la mia, mi si è accesa una lampadina. Insomma, De Gregorio cosa dice? Dice in sostanza, facciamola risentire, magari non l'ha sentita, che le donne bisogna candidare il maggior numero di donne possibili perché hanno meno tentazioni, dunque non ci sarebbero gli scandali sessuali. Ora, io, a parte che secondo me il fatto che in politica ci sono gli scandali sessuali non è di per sé una cosa negativa, perché insomma il sesso e il potere fanno parte insomma del mondo, comunque sentiamolo De Gregorio. Il caso di Marrazzo, il caso della Daddario, il caso di Del Bono. Benissimo, c'hanno tutti quanti un problema di compensazione, diciamo. Questo io lo capisco. E vorrei, anche per questo sarebbe l'ora di far andare avanti le donne, che questo problema, le garantisco, non ce l'hanno. Non si distraggono, si distraggono meno. Sono molto contenta della battaglia nel Lazio, dove comunque. Insomma, la teoria è questa, la potresti riprendere anche sul tuo The Front Page su internet, che vi invito sempre a leggere perché è interessante. Insomma, le donne in politica hanno meno tentazione, dunque avanti donne, perché insomma così non ci sarebbero scandali sessuali. Esagerazione? Beh, guarda, si potrebbe anche sostenere il contrario, che la colpa degli scandali sessuali è delle donne, perché se non ci fossero. Esatto, tra l'altro. I problemi del Presidente del Consiglio, per esempio, sarebbero quasi tutti risolti. Quelli di Marrazzo forse un po' meno. Però si potrebbe dire, non sono quelle, diciamo, che provocano problemi agli uomini di potere, non sono donne di potere, ma sono insomma altre. Sì, certo. Però, no, è una battuta, ma anche quella di Conchita, secondo me, dovrebbe essere presa come una battuta, perché non può essere questo il criterio. Tra l'altro, lo dicevi anche tu prima, il problema dei scandali sessuali vale, come dire, se ha a che fare con l'attività del personaggio, no? Con il sì. Con la sua figura pubblica, con la sua responsabilità, con la sua ricattabilità, come è stato detto, eccetera. Altrimenti, alla fine, una vita sessuale disordinata di per sé non è un criterio a favore o contro. È vero che le donne sono un po' più pragmatiche, quindi in una fase tendenzialmente post-politica come quella in cui viviamo adesso, le donne, e lo vediamo anche al governo, le donne ministro sono tendenzialmente sono più brave dei colleghi maschi, più brave, più danno un'idea di maggiore efficacia, ecco. E questo danno un'idea. È un merito. Beh, danno un'idea, perché poi sui risultati non pronuncio mai in questo paese. Però volevo farti un'altra domanda che riguarda D'Alema, è uno dei motivi per cui ti ho chiamato. Qualche secondo di pubblicità, perché insomma, oggi in un'intervista al Fatto tu hai rivelato una cosa, c'è anche in qualche altro giornale per la verità, ma comunque insomma che D'Alema fu tra virgolette, costretto a sposarsi dal partito. Storia interessante. Innanzitutto mettiamo le cose a posto. Intervista, perché sennò poi qualcuno si arrabbia. Intervista ieri al Fatto di Luca Telesi, e poi oggi c'è stato il Giornale che ha fatto la prima pagina addirittura su questa rivelazione sul matrimonio di D'Alema. Rondolino, ce la racconti. E tanto come rivelazione, diciamo, non è delle più fresche, perché stava già in due libri che sono stati scritti, Due vite di D'Alema. Non c'è mai una cosa... E una di Rapisarda, che sono due nostri bravissimi colleghi, hanno scritto due libri su D'Alema e tutti e due hanno raccontato questo episodio, quindi tanto segreto. No, non era segreto, però lei lo sa che anche le cose più, no? Non c'è niente di più nuovo che le cose che già si sa. Ma la storia in sé, secondo me, era un caso positivo. Poi invece il Giornale ha raccontato come un esempio di ipocrisia, di doppiezza comunista. Quando lui era un giovane, non so, 25 anni, consigliere comunale del Partito Comunista a Pisa, era un dirigente di 73, bravissimo, e lui conviveva con una fidanzata, una ragazza con cui conviveva, e il partito sollecitò, diciamo così, con una certa energia il matrimonio tra questi due, perché non stava bene che un dirigente di partito, appunto, convivesse senza essere sposato, perché la morale di quei tempi era quella. Ora, come quasi tutti gli aneddoti si possono leggere in due modi, no? Il Giornale l'ha letto come una cosa di ipocrisia, secondo me è uno di quei casi in cui forse eccessivi, naturalmente, ma che danno l'idea di una presenza, di un autocontrollo dei partiti, cioè di come i partiti controllavano all'epoca anche moltissimo la vita privata dei dirigenti, no? Anche non solo dei dirigenti. No, no, certo, scusa, ho raccontato questa cosa mentre stavamo parlando, appunto, di Marrazzo, di Del Bono, no? Sì, certo, il contesto era quello, certo. Allora, sì, meglio che lo sappia il responsabile dell'organizzazione che ti faccia la ramanzina che non il giornalista o il capo dell'opposizione, no? Però è vero, allora, che per me è una cosa nuova, perché quei libri non, magari li ho letti distrattamente, è una cosa che non ricordo, cioè... si arrivò al matrimonio di D'Alema praticamente, poi sarebbero sposati lo stesso magari, eccetera, però su suggerimento o su spinta del partito. Sì, ma voi dovete immaginare una specie, come avviene in una famiglia, no? In una famiglia ci sono, come avveniva, adesso i nostri figli fanno come gli pare, però insomma già la mia generazione, se uno viveva con una ragazza, poi a un certo punto i genitori cominciavano a dire: vabbè, ma quando vi sposate, no? Sposate, magari vi do una mano, magari vi faccio la cucina. E all'epoca c'era il partito preponderante. Il partito, grosso modo, si comportò in quel modo lì, ecco. E la storia del rinfresco com'è? Ma io la racconto in seconda mano, perché bisognerebbe raccontare al protagonista. No, è che naturalmente questi due non c'avevano neanche una lira, perché erano appunto ventenni squattrinati. E quindi il partito naturalmente si preoccupò anche di offrire un rinfresco in una casa del popolo, insomma, pane, salame, un fiasco di Chianti, qualcosa del genere. Ora però altri tempi però c'è una cosa interessante, ed è questa: forse ci vorrebbe ancora, non dico un controllo come all'epoca, matrimoni tra virgolette imposti, il partito che paga il rinfresco, per carità, non si può più fare e sarebbe ridicolo, però un qualche controllo sulla vita privata da parte dei dirigenti, eccetera, perché non succedano alcune cose. Insomma, un caso Del Bono non sarebbe accaduto all'epoca, su questo non c'è dubbio, no? Ma sì, secondo me sì, è proprio per quello che citavo quell'aneddoto, perché tra l'altro, appunto, il caso Del Bono è un caso ancora diverso, perché lui, problema vero, credo che sia questo bancomat, no? Perché il fatto che lui avesse fidanzate in giro, tutto sommato, non... E questa è una tipica cosa in cui un minimo di controllo interno può consentire di evitare brutte figure, ecco. Prima ancora che i reati, perché poi una parte di queste cose, non a destra come a sinistra, non sono reati penali o lo sono in misura molto lieve, però a proposito di questione morale hanno un significato, perché effettivamente io credo che il politico debba stare un metro sopra, ecco, visto che è l'unico che prende i voti. E un'ultima cosa sulla vicenda Del Bono: per esempio, io sono convinto che il grande errore commesso dal sindaco di Bologna, dall'ex sindaco di Bologna, sia stato quello di portarsi in regione la segretaria e la fidanzata che lavorava al comune, insomma. E questo, secondo me, la base è questo: se non l'avesse portata la regione a lavorare con lui, lì probabilmente non sarebbe successo. Però quello che è una vecchia regola che va in tutti gli uffici, prima ancora che nei partiti, cioè che non bisogna mai fidanzarsi con un collega d'ufficio, di redazione o di fabbrica, perché questo è fonte di guai sempre comunque. Questo è vero, però addirittura un po' di saggezza, come dire, anche di buon senso, senza ricorrere al comitato centrale. Va bene, grazie, buona serata. Grazie a traffico, te. Traffico, a presto. Eccoci, 2019 800 24 0024, Stefano da Napoli. Buonasera Stefano. Buonasera Gruciani. Dica. Allora, io volevo tornare sull'intervista che lei ha fatto col colloquio con Sandra Leonardo Mastella. Sì. Ora, io non contesto la sua cordialità, soprattutto con una signora che in questo momento è colpita anche da un provvedimento giudiziario, però credo che questi politici andrebbero attaccati un po' di più. Lei in qualche modo, a mio parere, si è unito un po' a un processo di beatificazione di soprattutto di questi politici che vengono colpiti da questi provvedimenti che partono dall'autorità giudiziaria. Guardi Stefano, io non volevo entrare nel merito delle accuse e del processo, che non è ancora processo, di quello che sta avvenendo intorno al caso Mastella. Ho chiamato perché c'era questa storia della candidatura, perché volevo, tra virgolette, non sarà mica proibito dal codice penale, cazzeggiare un po' intorno. No, perché sulle polpette no, assolutamente. Però non è manco un esilio, cioè, insomma, sentire, che stai in una casa, scusi Stefano, una casa, no, di tono a Roma, ma infatti Stefano, io che cosa ho detto? Esilio, l'ho detto, naturalmente non è che ho detto brutta imbecille, non si può permettere di utilizzare la parola esilio, ho detto ci mancherebbe altro. Ho detto semplicemente esilio mi sembra una parola esagerata. Però ho capito Stefano, ma che cosa bisogna stare col fucile esilio puntato, non ho capito, Credo che loro si sentano in esilio appena c'hanno qualcosa che non va per il verso giusto. Insomma, io le avrei chiesto, ma voglio dire, io per carità sì, non mi voglio sostituire al conduttore di una trasmissione qualificata come la vostra, però insomma, com'è questo movimento ondivago, prima a destra, poi a sinistra? Ho capito, ma lei che c'entra? Mi scusi Stefano, ma qui non è che bisogna in un'intervista rimettere in discussione tutta la politica di Ludero degli ultimi 10 anni. Qui c'è un fatto. Non basterebbe una trasmissione. Ma no, primo non basterebbe una trasmissione, secondo i politici quando si mettono a parlare di politica è finita, perché come ha visto, perché si è fatta anche un po' campagna elettorale, la signora Mastella, cominciano a dire tutte le cose che hanno fatto, eccetera eccetera. Non mi interessa tutto questo Stefano, non mi interessa, e siccome ogni tanto bisogna fare un po' di intrattenimento eccetera, il sapore delle polpette di casa Mastella è meglio di altre domande, di altre cose, secondo me. Infatti sì, però penso che sia rimasto divertito, cioè sia rimasto divertito anche lei, no? Che male hanno fatto. No, che poverina, non mi è sembrato, guardi, non mi è sembrata per niente abbattuta la signora Mastella, è passato questo messaggio. Non è sembrata abbattuta perché allora non sta meglio di tanti, insomma. E appunto, e io quello volevo e poi fare. Non può andare in Campania e beh, pazienza, insomma. Stefano, io a parte che il dato psicologico esiste, cioè la questione psicologica del fatto che una persona da ottobre non può varcare i confini della provincia di Latina esiste per tutti, anche per un miliardario esiste questo dato. Cioè, non esiste anche per un milionario, diciamo. Non bisogna metterla su un piano diverso, e dunque c'è sicuramente una situazione di tipo psicologico che va sottolineata, ma lasciamo perdere questo. Non mi è sembrato una persona distrutta, no Stefano? No. Almeno dalla telefonata. E allora appunto è venuta fuori una piacevole conversazione su come stava passando la serata e su alcune cose riguardo la sua candidatura, come si fa a fare campagna elettorale, cosa chiederà, punto. Non è comunque, diciamo che non c'era una beatificazione, capito Stefano? Non è una beatificazione, va bene, prendo atto, però diciamo che noi dobbiamo in qualche modo capire che la politica in Italia, non so se anche altrove, ma comunque sì, in Italia è quella che ognuno di noi sa e fa finta di non sapere. Lei avrà letto l'intervista di Taormina, dell'avvocato Taormina, credo sia ancora in Parlamento, non so se sia ancora in Parlamento. No, non credo proprio, e non ho letto nessuna intervista dell'avvocato Taormina, di cui non leggo un'intervista da parecchio tempo, però magari. Insomma, praticamente diceva che lui le leggi ad personam gliele chiedeva il Premier e lui le faceva molto meglio di quello che oggi fanno. Che oggi fanno gli altri. E Corella è l'attuale ministro di giustizia, insomma. Magari lo chiameremo nei prossimi. Fatto fuori. Però voglio dire, allora di che parliamo? Allora nei prossimi giorni lo chiamo, così almeno ci facciamo raccontare questa storia, Stefano. È molto interessante. Grazie, sì. Grazie. Su internet la trova questa intervista, è chiarificatrice di cose che, parliamoci chiaramente, insomma, forse già sappiamo bene. La ringrazio. Ringrazio lei. Stella da Roma, buonasera Stella. Cruciani, buonasera. Come sta? Bene, lei? Lei non sta cucinando le polpettine come la signora Mastella, no? No, no, mi fa tenerezza, comunque le polpette mi piacciono anche a me. Beh, certo, poi non ha visto... Riprendo, no, non riprendo il discorso di quel signore, assolutamente. No, io volevo dire questo, lei ha fatto questa trasmissione improntata su queste due, ho sentito dall'inizio, quindi... Allora, voglio dire la mia, Concita, logicamente che reputo una donna intelligente... è capace, logicamente ha detto una constatazione di quello che è la realtà. La realtà è quella che forse noi, in questo caso dico noi donne, dovremmo iniziare a prendere possesso di un potere che non abbiamo mai avuto. Noi per 50 anni, 60 anni siamo arrivate, abbiamo visto, quindi logicamente siamo più pulite, ecco perché forse lo gestiremo meglio, solo perché non siamo come voi avvezze ai giochi di potere, quindi voi avete avuto nei secoli e nei secoli il modo di imparare bene quello che si fa col potere, no? E soprattutto quello che si strafa col potere. Quindi che cos'è che disturba oggi donne come me che hanno fatto una strada in salita? Cos'è nella che vita, disturba? No? Disturba lo strapotere. Io non ho niente contro. Che significa lo strapotere? Cioè l'utilizzazione del potere in chiave, l'utilizzazione del potere in chiave sessuale, questo? No, posso finire il pensiero così sì, poi mi dice quello che vuol dire lei. Io non ho niente contro il potere maschile, perché è bello che si confronti con quello femminile, dove fosse possibile, da noi è impossibile, no? Perché? Perché le donne si vogliono sottomesse e stupide. Quindi quelle che sono al potere e che ci arrivano con intelligenza sono scomode, perché non sono ricattabili. Lei dice, eh? Sì, sono sicura di questo, no? Glielo dico, perché, e lo sa anche lei, Cruciani, lo no, sa benissimo, meglio di me. Veramente non allora lo so. Io le dico una cosa, poi la Ferilli ha fatto una provocazione, perché la Ferilli è anche una donna intelligente, ha fatto una provocazione. Allora, sarebbe molto bello avere delle veline intelligenti. Purtroppo, siccome viviamo una società nella quale ultimamente si è voluto soltanto mettere in evidenza la stupidità delle donne, qui ci ha pensato bene Berlusconi con tutto mi sembra che lei sia totalmente d'accordo con la De Gregorio. Io sono d'accordo con le persone obiettive, come molte volte non è che lei. Se uno, questa sera lei non è stato obiettivo. Non è che se uno non la pensa come la De Gregorio o come lei non è obiettivo, abbia pazienza. Lei oggi, se facesse una valutazione a quattro occhi con me, mi darebbe ragione. Sta portando perché? La trasmissione avanti, è logico che deve portare avanti il suo modo di contrastare. La capisco, okay. Non è che non la capisco, perché altrimenti cadrebbe il modo di fare trasmissione. Però le dico che la realtà è quella che sto dicendo io, e lei lo sa meglio di me. Ma che no, assolutamente non lo penso. Guardi, Cruciani, la metta come la dico io. Facciamoci a intendere. Risponderà più successo. Facciamoci a intendere, dice lei. No. Capiamoci. No, non è così. Capiamoci, è così. È così, e guardi, sicuramente se lei scende un attimino più ai livelli normali delle persone... Ma io scendo sempre ai livelli normali. No, ci scenda. Veda qual è la realtà, non si trinceri dietro. Cioè il potere maschile, lei. Secondo lei esiste il potere maschile? Esiste un potere becero maschile. Potere becero potere maschile. Oggi è becero. Ma sì, esisterà pure, ma è residuale, insomma, è residuale. Residuale di cosa? Residuale è residuale, c'è cioè un'interpretazione del potere in un certo modo, come dice lei, è un po' residuale, devo dire. Insomma. No, io interpreto quello che vedo. Vedo la società attuale, e la società attuale ha un potere becero. Cioè, secondo lei però, Stella, a parte tutto, è vero o non è vero che se ci fossero più donne al potere, come dice la De Gregorio, dunque dice avanti donne, ci sarebbero meno scandali sessuali? Ma per il motivo cioè, ci sarebbero meno tentazioni? Io ho detto che noi siamo più giovani, no? No, ma lasciamo perdere. Più giovani. Voglio dire una cosa. Solo per quello. L'ha detto prima. Cioè, magari tra 50 anni non sarà così. Non lo so. Tra 50 anni, se ci risentiamo e siamo tutti e due vivi, magari ce lo possiamo dire. Magari. Però le dico semplicemente che è così, lei ha voluto estremizzare Concita. Però è così come dice, perché siamo più giovani, meno avvezze ai giochetti di potere, ecco, meno avvezze, più attente al bene comune. Forse perché veniamo da una condizione femminile dove la famiglia per noi è stata sempre determinante, quindi il rispetto. Cioè, per secondo l'uomo. Lei la Carfagna è più brava come ministro perché è donna, per esempio? No, la Carfagna non la stimo. Vabbè, allora la vede che però lei... Perché c'è arrivata, semplicemente lo sa meglio di me come c'è arrivata. No, non lo so, me lo dice lei. Attraverso il potere di un uomo. E che ne sa lei? Le sue qualità e che ne sa lei che c'è arrivata attraverso il potere di un uomo? Beh, non è che ha fatto un'escalation, penso che Rosy Bindi non ha fatto lo stesso percorso politico suo, magari, che dice? Bah, no, Stella, questo mi sembra un pregiudizio, francamente. No, non è un pregiudizio, è una realtà dei fatti. Se io domani mattina mi alzo e mi dicono che hanno candidato Tizia Pinca Pallina o Pinco Pallino, e uno faceva il tronista e l'altra faceva la velina, io devo pensare che magari qualcuno che c'ha potere ce l'ha messi. Mentre se domani mattina mi candidano, mi dica una, adesso non me ne viene in mente una giovane, io non voglio dire sempre le solite persone, me ne viene in mente nemmeno una, perché di donne che ci hanno... No, ma ho capito perfettamente, c'è la borsa, grazie Stella, buona serata. TG2, titoli. Primo giorno del vertice Israele nell'Unione Europea, visita al Museo dell'Olocausto mercoledì, intervento al Parlamento. Tremonti torna ad attaccare i banchieri, non fanno il loro mestiere, nell'incontro di Davos afferma, l'unico discorso di grande rilievo è stato quello del presidente francese Sarkozy. La portaerei di Cavour, arrivata ad Haiti con un ponte aereo iniziato lo sbarco di militari e mezzi, arriva la conferma ufficiale della morte dell'italiana Cecilia Corneo. Livelli ancora troppo alti di inquinamento a Milano, possibile un nuovo blocco del traffico domenica prossima, annuncia il comune. Al TG2 il ciclista multato, incredulo ma rassegnato. A Parigi una esibizione di teschi dall'antichità ad oggi, usati come segno della fragilità umana e come arma per sconfiggere la vanità. Siamo qui, Marco da Bologna, buonasera Marco. Buonasera Cruciani. Dica. Dunque, volevo fare un intervento su Brunetta. Sì. E quindi sulla sua candidatura a sindaco di Venezia, e vorrei che diventasse anche una sorta di appello, anche se non credo di avere questo potere, appello verso il ministro, ovvero io sono un dipendente pubblico e diciamo il fatto di sentire che un ministro si candida anche a sindaco e quindi fa due attività teoricamente, potenzialmente, poi teoricamente lui è anche professore, quindi non so se sta in questo momento lavorando anche come professore oppure no. Non credo, no, sarà in aspettativa. Io, però insomma, e magari qualche consulente eccetera. Comunque, a parte questo... No, Marco, guardi che tutti i lavori di Brunetta sono trasparenti da questo punto di vista, cioè sono regolarmente certificati, certo. Per cui può andare a controllare, non credo che faccia consulenza Brunetta, perché insomma fa il ministro, per cui consulenza di costo. Era solo, non lo so questo, comunque era semplicemente per fare un parallelo, no? Tra che cosa? Con la situazione invece diciamo di un dipendente pubblico qualsiasi, come sono io, ovvero la possibilità di fare una seconda attività per legge non è possibile, ovvero la situazione io per poter fare una seconda attività dovrei mettermi al part time al 50% e poter svolgere. Scusi Marco, però questa non mi sembra una grande obiezione, perché una cosa è il dipendente comunale, uno non è che fa il ministro a vita, fare il ministro dipende da tante cose, dalla volontà politica, dalle elezioni, dalla propria bravura eccetera eccetera, dai casi e dai destini della politica, per cui insomma, non è paragonabile un ministro a un dipendente pubblico. No, ma infatti io non voglio mettere in paragone le due cose assolutamente, però io penso che se uno il sabato, la domenica o la sera volesse poter approfittare delle proprie capacità, io sono un informatico, per svolgere altre attività, soprattutto magari in un periodo di crisi viene ancora di più questa necessità, per guadagnarsi qualcosina in maniera regolare, perché poi uno ovviamente potrebbe anche farlo in altra forma regolare, io non vedo perché non possa farlo. Vabbè, questo è un altro discorso, il fatto che un dipendente pubblico, a parte che lei sa benissimo che i dipendenti pubblici in qualche modo un secondo lavoro, anche se non come dire, non da dipendente, non da consulente, non ufficiale, magari ci sono dei consulenti dei dipendenti pubblici che hanno delle società insieme, non so, a parenti, cose, questo è permesso, è consentito, credo, no Marco? Sì, ho capito, però sarebbe un... Cioè se un dipendente pubblico si mette in società con qualcuno per gestire un negozio, penso che lo possa fare dal punto di vista legislativo, insomma, dal punto di vista delle norme, ho no? Ho capito, però diciamo questo è uno stratagemma, è un po' una cosa all'italiana, uno stratagemma... Io non so se sia uno stratagemma, insomma, lei cosa vorrebbe? Ma Marco, cosa, diciamo, a partire dalla vicenda Brunetta, lei cosa vorrebbe? È semplicemente un appello, la possibilità se... Allora, siccome Brunetta fa due lavori, potrebbe fare due lavori, anche i dipendenti pubblici dovrebbero poter fare due lavori. Mi sembra una cosa... una cosa mi sembra una cosa francamente senza senso, soprattutto con riferimento alla vicenda Brunetta. Grazie, ma restiamo a Bologna perché vi presentiamo un personaggio molto conosciuto a Bologna. Insomma, sapete, il centro-sinistra, ma anche il centro-destra, in realtà sono alla ricerca di candidati per elezioni che non si sa quando ci saranno. Può darsi a marzo, può darsi fra qualche mese. C'è un pastrocchio lì che non si sa quando verrà risolto dal punto di vista delle date. Il personaggio è questo. Se devo dire se sono di destra o di sinistra è un problema, perché io politica non ne faccio. Però forse la destra è più individuale, no? È vero? Sono un po' più individuale di due liste come persona, quindi non sono sicuramente di sinistra, ecco. Euro 1, euro 2, euro 3, euro 5, 10 euro meno gireranno tranquillamente a Bologna e il centro tornerà a rivivere come una volta. Pavaglione, aprirò tutte le strade, ZL, parcheggio a pagamento, Sirio, i semafori. Molti diranno, ma come facciamo noi con i lavavetri? Che è un bel problema il lavavetri, è un problema semplice, io l'ho risolto, tolgo i semafori, non ci saranno più lavavetri, giusto? Beppe Maniglia, buonasera. Buonasera, eccomi qui. Come sta? Come sta? Sto benissimo. 1943, insomma, i suoi anni lei ce l'ha, insomma, se li porta bene, almeno a vedere su internet le sue cose, si riporta molto bene. Alla grande. Con quei capelloni lunghi, anche lei, mi sembra barbato. Sì, sì. Vabbè, senta, lei si era già candidato in realtà a sindaco di Bologna, no? Nel 2009, esatto. Ma che è successo poi? Una lista? Come ci spieghi un po'? Ma veramente io ho perso le elezioni per una ragione sola, perché è successo che, scusa un attimo che... Ma dove si trova adesso? Maniglia, dove... bomba e cerco di sistemarlo. Ma dove si trova lei adesso? Adesso mi trovo a casa. Sì, e che deve rimbombare a bene. Casa? Ah, okay. Adesso va tutto bene. Va bene, allora... Veramente è stato così la situazione, che io sono molto inesperto, sì, di queste situazioni elettorali, sì, e mi hanno fregato un po' mandandomi degli elettori a firmare che avevano già firmato per qualcun altro. Mm. E allora... Cioè qualche irregolarità, la sua lista si chiamava Maniglia Muscolosa. Esatto, c'erano delle irregolarità, allora, ma cose stupide, ma comunque mi avevano già avvertito, perché io ho degli amici in palazzo, dico, guarda che ti fregano in qualche maniera, perché io... su Facebook e su tutti, sì, tutti, cioè secondo lei l'hanno fatta fuori perché lei è molto popolare, è moltissimo, infatti io sui giornali, sul Carlino, sui giornali qui dell'Emilia mi dicevano, sì, parlavano di Cazzola, di del Bono e non parlavano di Maniglia Muscolosa, e poi un trafiletto piccolino perché gli altri pagavano logicamente le pubblicità, certo, c'era scritto Beppe Maniglia stravince quindi dai sondaggi io ero il numero uno, cioè però, secondo lei la sua lista avrebbe sbaragliato tutte le altre e lei sarebbe diventato sindaco, non mi dica questo. Sicuramente, ma questo succederà adesso sicuramente. Ah, perché lei ci riprova? È sicuro, io ho un programma vero, un programma che cambierà Bologna in breve tempo. Senta, lei che fa il musicista, no? Io sono musicista, sicuro. E dov'è che si esibisce? Vabbè, io adesso mi esibisco, adesso devo andare a Londra, devo andare giù, perché io ho fatto molti dischi molto belli che all'estero sono molto conosciuti, ma anche qui perché vendo una media di 10.000 al mare, perlomeno quando vado in tournée al mese, dei miei dischi, quindi mi conoscono in tutto il mondo. Senta, ma dice che mi dicono che si esibisce in Piazza Maggiore con la sua... Sì, sì, Piazza Maggiore, ormai 30 anni che faccio in Piazza Maggiore... Senta, però io voglio capire una cosa, il suo programma per Bologna, per esempio ho sentito quella cosa sui lavavetri dei semafori, sì, beh, certo, splendida, me la spieghi meglio? Cioè, non è una goliardata, la verità, perché nel mondo... No, appunto, questo i semafori capire. Sono una spesa enorme. Cioè via i semafori, corrente, questo è... Via i semafori completamente, perché in Germania questi esperimenti li hanno già fatti, sì, e sono calati gli incidenti dell'80%, non è anche del 10%. Cioè, lei se fosse eletto sindaco di Bologna, toglierebbe tutti i semafori? Subito, immediatamente, leverei il Sirio, tutti quei cose elettronici per fare le multe, via, e il parcheggio a pagamento, sì, l'entrata al centro storico, la corsia preferenziale, tutte cose che il traffico lo incanalano in tutte le maniere, in maniera sconclusionata. E non sarebbe il caos, niente. Secondo lei non sarebbe il caos, no, per il contrario. Assolutamente, sarebbe perfetto, anche perché poi quando uno arriva alla striscia pedonale, sì, è logico, buona creanza, se vede che qualcuno attende sulla striscia pedonale o fa un segno, deve rallentare in tutte le maniere per fermarsi, se no si ferma, gli passa 2000 euro di multa del comune. E quello anche adesso però succede, non è che uno succede, non succede qui in Italia, ma all'estero non succede. Io mi ricordo che sono andato, ero 20 miglia, che siamo ancora in Italia, sì, camminavo tranquillamente per la mia strada in prossimità di una striscia pedonale, ho visto che dietro di me si sono fermati tutti, io non avevo nessuna intenzione di attraversare, ho dovuto attraversare per non dargli una delusione, per... poi ho aspettato che andassero via tutti, sono ripartito, sono tornato in un'altra strada. E quindi, per dire, l'educazione. Senta, questa è la prima cosa che farebbe. La seconda cosa che farebbe a Bologna, che cosa farebbe? Ma io ne ho un programma, se tu ma guardi, questo lo so, ma noi ogni sera la chiameremo per farci dare qualche punto del suo programma. Il secondo punto qual è? Programma che fa la città degli anziani, per esempio. Sì. La città, io ho il Parco Nord qui. Però mi dico una cosa concreta, perché questa dei semafori è una cosa molto concreta. Via i semafori. Queste subito le faccio via. Subito. Il Sirio, ZTL, questo l'ho capito, L'altra cosa qual è? Ma c'ho un programma che adesso non l'ho qui presente, ma è enorme. Io ho fatto un bel programma. Innanzitutto i vigili. Via. Vigileranno, cammineranno via 24 ore al giorno. A gruppi di due minimo, e ogni tre minuti si devono incontrare, come a Londra, devono fare così. No, mi scusi, mi spieghi un po' questa cosa. Dunque, nuovi compiti dei vigili urbani, quali sarebbero? Fare i vigili urbani. Cioè? Fare il loro lavoro. E perché adesso vigilare, che fanno? Adesso che fanno? Niente. Non fanno solo delle multe, fanno multe. E invece multe. Lei come li immagina questi vigili urbani in giro per Bologna? Ah, io le immagino bene che camminano attorno ai palazzi continuamente, giorno e notte. Ah, così, random. Gruppi di due o tre e girano attorno al palazzo, ogni 3 o 4 minuti si devono incrociare tutto Bologna. Senta, poi c'è mi dicono qua degli ascoltatori che la conoscono da Bologna, eccetera. No, ma mi dicono tutti d'accordo. No, sì, sicuramente. Perché farò la prima cosa che faremo sarà le strisce rosse e blu che segneranno i confini di Bologna. Ah, e mi spieghi, le regole cambieranno. Mi spieghi questa... potrà girare liberamente, nel senso venire dentro, dice dove vai, dice dove vivi, dove dormi. Devono, come all'estero, tu vai lì, dici, io dormo da un amico, bene, c'hai un mese di tempo, poi te ne ritorni a casa tua. No, mi spieghi un attimo, questa è una cosa complessa, le strisce, i colori, eccetera. Traffico. Maniglia, un attimo, un secondo, Maniglia, io l'apprezzo moltissimo e queste idee sono rivoluzionarie, però le voglio capire, perché altrimenti non ci confondiamo tutti. Allora, traffico, giusto appunto, e torniamo fra un attimo con Beppe Maniglia, che si candiderà con Maniglia Muscolosa, e così ancora una volta Maniglia Muscolosa, lei propone questa sigla? Sì, oppure esatto. Cambia? Oppure cambia? No, rimarrà sempre la Maniglia Muscolosa. Maniglia Muscolosa come sindaco di Bologna, ed è sicuro di vincere. Prima di tornare al suo programma, Maniglia, le volevo chiedere una cosa, ma questa possibile candidatura di Prodi, come la vede lei? No, sono una bufala. Addirittura? Prodi non la vuole nessuno qui a Bologna. Lei è così sicuro? Ma certo, ma quello non solo a Bologna non lo vuole nessuno. Vabbè, quello lasciamo perdere adesso, non lo voglio. Ma lei dice i bolognesi nemmeno lo vogliono. Sembra che il Partito Democratico spinga per avere Prodi candidato. Ma cosa spingono? Ormai quelli sono finiti, non mi meraviglio della gente che gli abbia dato il voto nelle ultime elezioni. Vabbè. Senta, però questa storia delle strisce per entrare a Bologna, com'è? No, niente, insomma, ogni città ha i suoi confini. Dentro Bologna si vuole della gente, tu non hai un'idea, tu non ci abiti, quindi il cambiamento di Bologna è un immondezzaio, è una discarica. E allora che bisogna fare all'esterno per marcare questi confini? Io metterò gli spazzini comunali, metterò gli autobus di mia invenzione, sì, metterò tutte le cose mie, eliminerò tutta quella gente che io poi so delle... Vabbè, niente, inutile che no, parlo. Ma questa storia dei confini com'è? Di marcare i confini con le strisce? Sono strisce rosse e blu in tutte le vie. In tutte le vie dove? Bologna, dove finisce. Quindi quando uno entra avrà il suo pensiero per entrare. Ah. Quando entri qui... Cioè le strisce rosse e blu dove bisogna mettere? Non ho capito. Nelle strade, per terra. Al posto delle strisce bianche? No, le strisce rosse blu segnano i confini di Bologna. Dunque solo da una strada. Ho capito, ma solo al solo al confine di Bologna oppure anche dentro? No, solo i confini. Solo i confini. Perché uno sa che sta entrando Bologna. Uno sa che cambia. Non è che c'è un cartello scritto Bologna, poi dove Bologna, insomma, bisogna fare. Ho capito, ma una volta che uno mette le strisce rosse blu che cambia poi? Cambia che quando entra è soggetto alle nostre leggi. Vabbè, ho capito, ma le leggi sono quelle di buona creanza, di devi seguire le regole, sì, che poi noi studieremo per fare una città sicura, tranquilla. Senta, vabbè, un'altra proposta, poi ci risentiamo nei prossimi giorni. Quella degli autobus, com'è sta storia degli autobus? Che autobus allora, noi abbiamo degli autobus, adesso hanno messo anche un autobus sulle gomme, no? Come si chiama, come lo chiamano lì? Un bagaglio enorme che non funziona. Un tram, ancora un bagaglio enorme, un tram. Che un'altra cosa che devo dire dei semafori. Ah, mi dica. Era sul giornale, il PD ha detto, ci sono vantati a Bologna, che hanno messo, che hanno cambiato le lampadine dei semafori. Io so benissimo che non è vero. Comunque niente, sono 9.500 lampadine, ho fatto i conti, dei semafori. Hanno messo 2 milioni di euro il comune e 1 milione di euro l'era. Quindi ti puoi immaginare 3 milioni di euro per cambiare Le lampadine bisogna cambiarle se prima o poi, sennò si consuma. Sì, ma le lampadine costano un euro l'una. Ah, hanno esagerato, dice lei. La volevano mettere a LED. Quelle a LED le hanno messe una cinquantina, che me l'hanno detto, che sono saltate subito perché sono delle porcherie. Vabbè, ma tanto lei i semafori li vuole eliminare tutti, per cui... No, ma capisci, 9.000 lampadine... Cioè lei dice i semafori... 18.000 euro, al massimo. 3 milioni di euro. Hanno raddoppiato le pulizie delle strade e la pulizia dei portici di Bologna. Non si può girare, è una vergogna. Hanno raddoppiato le spese. Ho capito, Maniglia, ma di tutto questo parleremo nei prossimi giorni. La ringrazio, grazie, grazie. Ciao a tutti, grazie, Beppe Maniglia. Euro 1, euro 2, euro 3, euro 5, 10 euro meno gireranno tranquillamente a Bologna e il centro tornerà a rivivere come una volta. Pavaglione, aprirò tutte le strade, ZL, parcheggio a pagamento, Sirio, i semafori. Molti diranno, ma come facciamo noi con i lavavetri? Che è un bel problema il lavavetri, è un problema semplice. Io l'ho risolto, tolgo i semafori, non ci saranno più lavavetri, giusto? Andrea da Padova, buonasera. Salve. Dica. Niente, io avevo chiamato inizialmente per parlare delle affermazioni di Concita De Gregorio, però prese da un'altra parte rispetto alla questione della donna che tutti hanno sottolineato, anche secondo me giustamente. Più che altro Concita De Gregorio parla di rivoluzione morale. E a mio avviso è questa la vera priorità dell'Italia ora come ora. Ah, la butta, lei la butta così sul serio, insomma. Sì, perché ovvio che c'è il problema della donna, degli scandali sessuali, tutte queste è seriamente, secondo me è un problema molto serio. E io lo dico anche come come diciamo agente educativo. Andrea, che c'ha? Mi sembra affannato lei. No, è che sono leggermente chiuso di un po' di asma. Ah, di asma, sì. No, niente, e a mio avviso, lo dico io, che vabbè, io sono educatore di azione cattolica e poi vedo anche tanti altri. Sì. C'è questa disparità, questo giro di, insomma, questa, chiamiamola anche doppia morale. Prima Concita De Gregorio ha messo l'audio di quando la russa gli ha domandato, ma suo figlio parla dell'Odo Alfano. A mio avviso trasuda in tutta la cittadinanza, in tutte le persone, questo senso di doppiezza, questo senso di anche di disturbo dal punto di vista etico e dal punto di vista morale. Vabbè, Andrea, non ho capito, però va bene lo stesso. Grazie. Massimo da Belluno, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, allora innanzitutto volevo complimentarmi per la sua intervista col senatore Torri, che secondo me rimane una pietra miliare della radio italiana. E addirittura. Beh, insomma, quella storia dei morsi, quello più grave, quello meno grave, è stato stupendo. È stato bellissimo. Mi pare che stiamo andando avanti sulla stessa falsariga e molto apprezzabile per quanto mi riguarda. Senta Massimo, no, dica pure. Niente, io vorrei tentare un'analisi in realtà sulla questione di uomini, donne, il potere che ha fatto la... Ecco, perché mi pare che generalizzare così su un aspetto importante della vita pubblica italiana non dia certamente onore a una giornalista. Il secondo punto invece è invece un po' più pragmatico, un po' più sul pratico, così io dico se qualora ci fosse questa presunta virtuosità intrinseca del genere femminile, no? Quando questo fosse al potere, com'è che prima non si manifesta questa virtuosità? Nel senso, Marrazzo a parte, questi politici con le donne vanno, no? Mi sembra. Allora, se c'è questa virtuosità aprioristica, intendo dire, questa virtuosità così, perché non si manifesterebbe prima? Perché le donne vanno con i politici se sono così virtuose? Sì, però scusi, Massimo, considera che loro parla delle donne al potere, non delle donne fuori dal potere. Però devo dare la linea anche ad altri ascoltatori perché siamo verso la conclusione, Massimo. La ringrazio, 800 24 00 24, ma siamo davvero in conclusione. E allora, Stefano da Livorno, velocemente, un flash, Stefano. Buonasera Giuseppe. Dica. Innanzitutto una cosa, da Tarquinia a Civitavecchia passato non si sente la Radio 24. Molto male, moltissimo. Comunicheremo molto male, lo sappiamo che ci sono ogni tanto dei problemi. Dica. Benissimo, poi volevo dire che sono perfettamente d'accordo con la signora Concita De Gregorio. Sì. Per una semplice ragione, che come diceva l'ascoltatore poco prima, gli uomini di potere, ricchi soprattutto di potere, sono bersaglio di moltissime donne. Ben difficilmente succede il contrario. Se una donna non è in qualche modo attraente o non ha un suo charme, può avere tutto il potere del mondo, ma pochissimi uomini sono attratti. Viceversa. E allora questo bella, qua è un motivo. No, scusi, però, Stefano. Se una donna è bella, intelligente e ha anche potere, inibisce ancora di più gli uomini. Quindi ha ragione lei. E dunque, avanti le donne. Avanti le donne. Avanti le donne per questo. Grazie. Alonso da Bologna, buonasera. Anche lei molto velocemente, grazie. Buonasera Cruciani. Rinnovo la stima, ci eravamo già parlati tempo fa in merito del gol per Brunetta. Lei sta perdendo dei secondi, però perché devo chiudere, Dica. Allora, molto velocemente. Prima di tutto Brunetta, il discorso di prima, che Brunetta ha già due stipendi, uno da parlamentare, l'altro da ministro, avrebbe un terzo stipendio, e a parentesi è chiusa, non mi interessa veramente. Maniglia non è un musicista, nel senso che non suona nei suoi dischi, conosco bene chi suona nei suoi dischi, e quando suona live suona in playback, ed è un, quindi si rivela. Vabbè, ma adesso non entri nei dettagli, stiamo scherzando noi con Maniglia. Da poco, perché se uno mi presenta un buffone, mi dice non è un buffone, io dico aspetta, questo è un buffone, poi dopo te puoi andare a votare chi vuoi. Buffone in che senso, mi scusi? Ha detto uno che dice che è musicista ma non suona nei suoi dischi. Un cantante, musicista, come lo vuole presentare lei? Un nulla facente? È un personaggio folcloristico di Bologna. Ecco, personaggio folcloristico di Bologna, d'accordo. Grazie, ecco. Adesso dobbiamo chiudere. Lo so, però vede, lei ha perso dei secondi preziosissimi. Ci sentiamo anche con lei, domani 18.30.